Il Leggio, podcast di lettura di testi liberi. A cura di Massimo Fierro. Bentornati a Il Leggio. Come molti di voi sapranno, sono stato recentemente incastrato in quella magnifica esperienza che ha coinvolto anche Marco Pizza prima di me, che è la paternità. Ed ecco che adesso che la mia bimba è un po' più grande e mi lascia un pochettino più di tempo per lavorare sui miei progetti, se non altro la notte, torno al podcasting e torno con il più semplice dei due progetti che ho portato avanti fino adesso, che è Il Leggio. Proprio in veste di padre e in forza di questa presenza esuberante nella mia vita, ho deciso di ricominciare con delle letture per bambini e quindi per questo primo episodio della ripresa, diciamola così, di Il Leggio, vado a leggere una favola da Favole al telefono di Gianni Rodari, un libro a me molto caro. Buon ascolto. Il cacciatore sfortunato. Prendi il fucile, Giuseppe. Prendi il fucile e vai a caccia, disse una mattina al suo figliolo quella donna. Domani tua sorella si sposa e vuole mangiare polenta e lepre. Giuseppe prese il fucile e andò a caccia. Vide subito una lepre che balzava da una siepe e correva in un campo. Puntò il fucile, prese la mira e premette il grilletto. Ma il fucile disse «Pum!» proprio con voce umana, e invece di sparar fuori la pallottola, la fece cadere per terra. Giuseppe la raccattò e la guardava meravigliato. Poi osservò attentamente il fucile, e pareva proprio lo stesso di sempre, ma intanto, invece di sparare, aveva detto «Pum!» con una vocetta allegra e fresca. Giuseppe scrutò anche dentro la canna. Ma com'era possibile, andiamo, che ci fosse nascosto qualcuno? Difatti dentro la canna non c'era niente e nessuno. E la mamma che vuole la lepre, e mia sorella che vuol mangiarla con la polenta? In quel momento la lepre di prima ripassò davanti a Giuseppe, ma stavolta aveva un velo bianco in testa e dei fiori d'arancio sul velo, e teneva gli occhi bassi, e camminava a passettini passettini. «Toh!» disse Giuseppe. «Anche la lepre va a sposarsi. Pazienza, tirerò un fagiano». Un po' più là nel bosco, difatti, vide un fagiano che passeggiava sul sentiero, per nulla spaventato, come il primo giorno della caccia, quando i fagiani non sanno ancora che cosa sia un fucile. Giuseppe prese la mira, tirò il grilletto e il fucile fece «Pam!» disse. «Pam, pam!» due volte, come avrebbe fatto un bambino col suo fucile di legno. La cartuccia cadde in terra e spaventò certe formiche rosse, che corsero a rifugiarsi sotto un pino. «Ma Benone!» disse Giuseppe, che cominciava ad arrabbiarsi. «La mamma sarà contenta davvero se torno col carniere vuoto!» Il fagiano, che a sentire quel pam pam si era tuffato nel folto, ricomparve sul sentiero e stavolta lo seguivano i suoi piccoli, in fila, con una gran voglia di ridere addosso, e dietro a tutti camminava la madre, fiera e contenta come se le avessero dato il primo premio. «Ah, tu sei contenta, tu!» borbottò Giuseppe. «Tu ti sei già sposata da un pezzo. E adesso a che cosa tiro?» Ricaricò il fucile con gran cura e si guardò intorno. C'era soltanto un merlo su un ramo e fischiava come per dire «Sparami, sparami!» E Giuseppe sparò, ma il fucile disse «Pam!» come i bambini quando leggono i fumetti, e aggiunse un rumorino che pareva una risatina. Il merlo fischiò più allegramente di prima, come per dire Hai sparato, hai sentito, hai la barba lunga un dito. Me l'aspettavo, disse Giuseppe, ma si vede che oggi c'è lo sciopero dei fucili. Hai fatto buona caccia, Giuseppe? Gli domandò la mamma al ritorno. Sì, mamma. Ho preso 3 arrabbiature belle grasse. Chissà come saranno buone con la polenta. Avete ascoltato Il Leggio, podcast di lettura di testi liberi.